Imparo lo Zohar, parte 1. Voglio avvertire immediatamente che intraprendo registrazioni audio in italiano esclusivamente per il motivo che non abbiamo una persona per cui questa lingua è nativa e che vorrebbe farlo per noi. Pagina 4. Riguardo al libro. Il libro è in aramaico. Il testo originale di Zohar con il famoso commentario di Hasulam, la scala, che è in ebraico. Nel nostro libro entrambi i componenti sono indicati in grassetto, sia nella lingua originale che nella traduzione italiana. Il commentario di Hasulam non è indicato separatamente, poiché non migliorerà la chiarezza. Questo libro include anche due dei miei commentari sullo Zohar e Hasulam. Uno, Baderach el Hasulam, sulla via per la scala, si basa sulle lezioni di Zohar che io ho iniziato a dare anni fa ad Amsterdam ai miei studenti olandesi e belgi. Quelle lezioni sono state registrate su audio. 2. Margalot Hasulam, i piedi della scala. È basato sulle lezioni di Zohar che io ho iniziato a dare da settembre 2007 in inglese online. È un importante commento aggiuntivo che dovrebbe essere appreso insieme a Baderach e la Sola. Come risultato, uno impara ogni lezione come se fosse due volte. Dapprima Baderach el Hasulam e la prossima Margalot Hasulam. Poiché da questo motivo il materiale educativo diventa più durevole e sarà intagliato nel sé interiore del lettore. Chiunque legga questo libro con piena attenzione e chi applicherà il contenuto su se stesso percepirà la via per i mondi spirituali e la sua propria salvezza. Passo dopo passo sarai guidato alla tua salvezza, realizzazione e completezza. Se ti senti profondamente toccato e vuoi saperne di più sull'unica istruzione, non esitare a contattarci. Potrebbe essere possibile per te iniziare o continuare il tuo studio presso il nostro centro per la Kabbalah Luriana. Questo ho scritto, ho detto nel 2007. Ora no, non esiste questa possibilità. Questo è il libro, questo ebook è solo nell'illustrazione di questa sezione della nostra educazione alla Kabbalah luriana, per dare un'impronta a chi potrebbe essere interessato. Ma è anche un completo edizione del Zohar, parte 1. Prefazione. Leggere e studiare il libro Zohar. Che cosa significa per noi? L'importanza di apprendere lo Zohar, il libro segreto, è forse meglio illustrato da alcune affermazioni dai precedenti studiosi della Torah e cabalisti stessi. Anche il testo di Zohar ci mostra molto chiaramente quanto sia cruciale occuparcene. Non ci sono riferimenti menzionati nelle citazioni qui sotto, perché non sono di alcuna importanza per noi. Inoltre, attingiamo tutti da una sorgente. Dico nei Zohar, parte dello Zohar stesso. In questo tempo, uno spirito uscirà e non tornerà. Questo è lo spirito di Mashiach. Guai a quelli che lo inducono ad andarsene e lasciare il mondo e mai ritornare. Questi sono quelli che fanno della Torah un luogo arido e secco e non desiderano immergersi nella saggezza della Kabbalah. Guai a quelli che portano povertà e guerra e disgrazia, omicidio e distruzione nel mondo. Le lettere della parola Bereshit possono essere riorganizzate per leggere Atar Yavesh, che significa un fiume della Torah distrutto e asciutto. In quel tempo, quando è secco, i bambini sotto gridano al unisono e dicono Shema Israel. Non c'è ancora nessun suono e nessuna risposta. Questo riguarda colui che provoca della Kabbalah e saggezza l'allontanamento dalla Torah orale e dalla Torah scritta, e induce gli altri a non tentare di comprenderli, dicendo che non c'è nient'altro che Pshat, il semplice significato nella Torah e nel Talmud. Certamente sono come se causano al flusso divino ad allontanarsi da questo giardino e fiume della Torah. Guai a lui, sarebbe stato meglio che non fosse stato creato nel mondo e non avesse imparato la Torah orale, perché è considerato come se avesse riportato il mondo alla mancanza di forma e al caos, e causasse La povertà nel mondo è un allungamento del periodo dell'asilo. Uno è obbligato a coinvolgersi al meglio delle sue capacità nei segreti della Torah. Rabbi Abraham Azulai. Osservate, senza conoscere la saggezza della Kabbalah, uno è come una bestia, perché esegue mitzvot, i comandamenti, senza conoscerne la ragione e il loro gusto, solo eseguendoli come una tradizione. E assomigliano a bestie che mangiano fieno, che non ha il sapore del cibo destinato agli umani. E anche se uno è molto coinvolto nelle questioni di business, è molto preoccupato, non dovrebbe esonerarsi dall'occupare se stesso in questa saggezza della Kabbalah. Dovresti cercare di ritagliare un po' di tempo dalle tue attività quotidiane ogni giorno in modo che rimarrà il tempo per immergerti in questa saggezza, perché è il fondamento della Torah. Non sei assente dall'apprendimento della Torah interiore, cioè la Kabbalah, perché senza di essa una persona è un bue che mangia la paglia. Il coinvolgimento aperto nell'apprendimento della Kabbalah è stato vietato solo per il periodo di tempo limitato fino all'anno 1490 dopo Cristo. La generazione che è venuta dopo è chiamata ultima generazione. È ciò che era proibito. È diventato permesso. E il permesso è concesso per occuparci nello studio dello Zohar. E dall'anno 1540 dopo Cristo è più desiderabile che le masse grandi e piccole si occupino nello studio della Kabbalah. E poiché in questo merito il Re Mashiach verrà in futuro, e non in qualsiasi altro merito, non è corretto essere scoraggiati nello studio della Kabbalah. Rabbi Yaakov Abuhatzeir. Non c'è gioia come quella di rallegrarsi nella conoscenza della saggezza segreta della Torah, perché questa è la ragione principale per cui l'anima viene in questo mondo. Finché un uomo non conosce la saggezza segreta della Torah, lui cammina nell'oscurità come un cieco in un camignolo. Quando uno conosce questa saggezza, lui emerge dall'oscurità nella luce. La conoscenza di un uomo non è stabilita non è stabilita né ampliata eccetto attraverso la conoscenza dei segreti della Torah attraverso il libro di Zohar. Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzak. Riguardo a una persona che grida tutto il giorno nelle preghiere e ancora non conosce il segreto dell'unificazione del nome Havaya, correttamente è detto. Allora essi mi invocheranno, ma io non risponderò. Tempestivi mi cercheranno, ma non mi troveranno, perché hanno odiato la conoscenza e non scelsero di temere il Signore. Ma quei discepoli della Cabala ascendono sopra e si collegano a te. Con te maiuscolo, con un vincolo di fede per attirare prima da te la divina buona volontà. E immediatamente l'oceano di benedizione si apre davanti a loro e tutti i tuoi misteri sono rivelati prima a loro. E questa è la Kabbalah. La saggezza della verità che rivela la tua verità nel mondo. È noto dalle parole dei nostri saggi che anche leggendo il libro Zohar senza comprenderne una parola è un grande e potente merito spirituale e uno verrà a grandi cose miracolose. E questo può essere paragonato a qualcuno che è malato e ha urgentemente bisogno di un medico. Lui gli dà una medicina. E anche la scienza medica non sa come curare questa malattia. La medicina che il dottore li dà, funziona e guarisce. L'umanità diventa degna e accelera la redenzione della nazione di Israele. Yashar Kel, tutti quelli che desiderano l'unione con Havai, attraverso la compassione, come è scritto, con il libro Zohar esso sarà redento con misericordia dall'esilio. Tutti i regolamenti difficili sono stati annullati e non c'è niente come il libro Zohar che si erge come un muro di fronte a tutte le normative dure possibili. Purificherà e santificherà l'anima finché lei sarà purificata e irradiata. Proteggerà uno contro gli eventi malvagi in questo mondo e nel mondo a venire. Uno sarà irraggiungibile per gli accusatori e la sua inclinazione al male. Il libro Zohar rimane nascosto fino alla fine dei tempi in cui arriverà la generazione alla quale sarà rivelato. Con il merito di occupare se stesso con questo libro verrà il Mashiach. Quindi La terra sarà piena di conoscenza. È proprio come Israele non è stato liberato dall'Egitto finché non è stato santificato dal Alto, dal Santo Uno. Benedetto sia lui, con il sangue del sacrificio di Pesach e con la circoncisione, entrambi i sacrifici significano che gli uomini rinunciano alla loro bestiale nefesh a favore del dare. La futura redenzione, Geulah, non sarà rilasciata prima che la gente stessa causerà da sotto la redenzione finale ed essere degni di diventare cli, un completo ricevente delle benedizioni a causa del santo effetto della luce di Zohar. Questo è il desiderio di Santo Uno, benedetto sia lui. Benedetto è colui che diventa degno della luce di Zohar. Per il merito di studiare questo libro, il libro Zohar, la nazione ebraica verrà in modo misericordioso dall'esilio. L'Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Ari. Una persona non adempie completamente al suo obbligo di studiare la Torah, coinvolgendosi con Tanakh, Mishnah, Haggadah e il Talmud babilonese. Piuttosto uno è obbligato a coinvolgersi al meglio delle sue capacità in Zohar, nei segreti della Torah e dell'opera del carro, perché non c'è piacere più grande per Dio in tutta la creazione che quando i suoi figli sotto si coinvolgono nei segreti della Torah, per conoscere la sua grandezza, la sua bellezza e la sua supremazia. Il mio maestro, di benedetta memoria, usava dire ciò riguardo una persona che è molto affilata e arguta nello studio approfondito del Talmud. È bene per lui studiare 1 o 2 ore al giorno, e non di più, al fine di rompere i clipot, i gusci. Ma riguardo ad una persona che ha difficoltà con l'apprendimento approfondito del Talmud, è meglio sondare l'aspetto interno della cosa, cioè il frutto piuttosto che i clipot. Rabbi Baal Shem Tov. In questa generazione, quella dei talloni del Mashiach, l'Arizal e il Baal Shem Tov hanno detto che è una mitzvah rivelare aspetti nascosti della Torah e segreti superni per bruciare le spine della vigna. La redenzione di Israele e tutto il valore di Israele dipendono dall'apprendimento dello Zohar. Rabbi Vilna Gaon. colui che è in grado di comprendere i segreti della Torah e non cerca di comprenderli sarà giudicato duramente. Possa Dio avere misericordia. L'essenza della redenzione dipende dall'apprendimento della Kabbalah. La redenzione avverrà solo attraverso l'apprendimento della Torah. E l'essenza della redenzione dipende dall'apprendimento della Kabbalah. Tutti coloro che non capiscono il significato segreto dietro il Pshat, il semplice significato, non afferranno neppure il significato semplice. L'impulso del male non è in grado di superare tutti coloro che si occupano nella ricerca ai livelli segreti della Torah. Rabbi Ben Ish Chai. Ascolta. Quelli che possono ascoltare e comprendere. Coloro con l'intelligenza. A quello che i saggi ci hanno detto e quello che essi hanno avvertito e informato ogni ebreo. Per avvicinarsi al Santo dal coinvolgimento nei segreti della Torah e i suoi aspetti nascosti. Perché è un albero della vita per coloro che lo afferrano. Rabbi Shlomo Eliasha. Dicono, è scritto. Il segreto di nome Avaya è per quelli che temono lui. Questo versetto si riferisce all'idea che anche se un ebreo impara Mishnah, Gemara, e tuttavia non ha timore reverenziale per i cieli, per nulla si tuffa nelle grandi acque della Kabbalah. Tutto ciò in cui lavora è per niente. E tutti coloro che sono timorati di Dio dovrebbero perseguire attivamente gli aspetti nascosti della Torah, che sono l'essenza della saggezza e della conoscenza, cioè la gloria di Dio è una cosa nascosta. Quando farai la gloria per Havaia, quando sei occupato con la Kabbalah, negli aspetti nascosti della Torah. Sono molto sbalordito riguardo a quelli studiosi della Torah della generazione che non sanno nulla perché non si impegnano nell'apprendimento della Kabbalah. Come possono sopportare di non essere coinvolti nella Kabbalah, che è l'aspetto interiore della Torah? È strano per loro nella misura che essi completamente non sanno cosa è. È tutto dalle loro scuse e ragioni per non studiare la Kabbalah. Sono totalmente inadeguate, come dice, perché la Torah non è nei cieli. Poiché se era nei cieli, uno deve salire dopo di lei. Ed è semplice che il significato di questo verso si riferisce a tutte le parti e livelli di Torah. e l'aspetto nascosto è superiore a tutti loro. Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Leib Ashlag. La redenzione di Israele e tutto il valore di Israele dipende dall'apprendimento del Zohar, dello Zohar, e dall'aspetto più intimo della Torah. Come possono sopportare di non essere coinvolti nella Kabbalah l'aspetto interiore della Torah? L'opposto è anche vero. Tutte le afflizioni e degradazioni che sono venuti sui figli di Israele sono sul conto della loro negligenza nella parte più intima della Torah e non avendola valutata, ma avendola collegata come a qualcosa di superfluo. Dio proibisca. Rabbi Avraham Yitzchak HaKohen Kuk. A causa dell'alienazione della Kabbalah, i segreti di Dio, le qualità superiori della profondità della vita divina sono ridotte a banalità che non penetrano la profondità dell'anima. Quando ciò accade, la più potente forza manca dall'anima, della nazione e dall'individuo e trova favore essenzialmente l'esilio. Non dovremmo negare alcuna concezione basata sulla rettitudine e il timore del cielo di qualsiasi forma. Solo l'aspetto di un tale approccio, che desidera negare i misteri e la loro grande influenza sullo spirito della nazione, questa è una tragedia che dobbiamo combattere con consigli e comprensione, con santità e coraggio. Ora, quando la salvezza finale è imminente, si sente la voce della colomba nella nostra terra e le gemme sono viste nella terra. È la richiesta di cercare la luce di Avaya, di cercare la redenzione spirituale elevata, di fluire verso Avaya e la sua bontà aumenta e germoglia. Ora i tempi richiedono l'acquisizione della Kabbalah, la Torah interiore, con visioni sante che non possono cominciare ad essere ascoltate, ma dall'ascesa dell'anima e l'esaltazione della sua forza nella luce della sua più alta e più pura vita. Una massa in cui i cuori sono stati toccati da Dio. Di questo campo divino sarà il potere che stabilisce il fondamento della salvezza, il potere che dà la grazia, la luce della vita e l'orgoglio della grandezza all'intero slancio essenziale della rinascita nazionale nella terra di Israele. Lo Zohar, che rompe nuove strade, facendo una strada nel deserto, una strada nella regione selvaggia. È il suo intero raccolto, è pronto ad aprire le porte della redenzione. Anch'io ho detto, nessun gruppo, nessuna società, nessun movimento spirituale o diversamente, che sono conformi ai metodi esterni e soprattutto con gruppi principali, sociali e animali, porterà allo sviluppo finale, che è determinato ed esclusivo e personale solo per lui o lei, solo dovuto al metodo individuale della Kabbalah luriana, il quale è il metodo eterno, che in questo tempo rilevato al genere umano, c'è una reale possibilità per essa. Pertanto i libri di Ari e lo Zohar sono dati al mondo, così che ogni individuo e in tal modo l'intero genere umano può andare nel modo più veloce per completare la redenzione e ricevere il salvataggio finale della sua schiavitù egoistica.